Radio 24 Reportage. Covid-19. Storie di eroi per caso. Gli Avengers della provetta. Di Rosanna Magnano. Avere il virus isolato vuol dire avere a disposizione uno strumento per, da una parte, allestire i test sierologici che sono importanti per capire quando compaiono gli anticorpi lungo il decorso dell'infezione, per capire se gli anticorpi sono capaci di fermare l'infettività del virus, e inoltre avere il virus vuol dire avere a disposizione un sistema virus-cellula che ci permette di studiarne le caratteristiche biologiche, di fare una valutazione di sostanze antivirale con potenziale antivirale, e poi sicuramente è utile per allestire modelli di infezione che possono aiutarci ad allestire un vaccino prima di arrivare alla fase di test sull'uomo. Era il 2 febbraio. A meno di 48 ore dalla diagnosi di positività dei primi due pazienti Covid in Italia, la coppia di turisti cinesi, il team di ricercatrici del laboratorio di virologia del centro di riferimento per le bioemergenze Lazzaro Spallanzani di Roma, tra i primi al mondo, riesce a isolare il virus SARS-CoV-2. A spiegare la valenza di questo primo traguardo, la direttrice del laboratorio Maria Rosaria Capobianchi. E da qui i riflettori si accendono sul lavoro fino ad allora oscuro dei laboratori. E da un giorno all'altro i ricercatori italiani, trascurati, poco valorizzati, troppo pochi rispetto agli altri paesi europei, si sono ritrovati a giocare un ruolo nuovo, quello dei supereroi. All'improvviso, ancore di una speranza collettiva. Ricercatori che, nonostante le difficoltà, non hanno deluso le aspettative. L'Italia risulta infatti la terza produttrice di pubblicazioni al mondo sul nuovo coronavirus, dopo Cina e Stati Uniti, seguita da Gran Bretagna, Francia, Canada e Germania. Maria Pia Bracchio, prorettrice alla ricerca dell'Università Statale di Milano. Non solo a Milano, non solo a Roma, non solo in Italia, ma dappertutto, in due mesi, anche grazie all'accelerazione proprio motivazionale che è stata data alla ricerca, si sono fatti progressi che in altri casi richiedevano due anni. Quindi c'è stato proprio un reclutamento immediato della ricerca, che non è semplicemente un fiore all'occhiello, ma è qualcosa che serve alla popolazione, alla cittadinanza, e che è in grado di dare risposte subito. Pensiamo alla messa a punto del test salivare, che è stata fatta da quattro nostre ricercatrici mamme, che si sono messe insieme e, basandosi su un protocollo che era stato pubblicato in America, nell'arco di poche settimane hanno messo a punto un test che si può fare comunemente nei bambini usando un semplicissimo tampone salivare, quindi evitando il classico tampone nasale orofaringeo, che nel bambino non è proprio sempre graditissimo. Oppure pensiamo anche alle ultime scoperte, e cioè uno studio fatto in collaborazione da Statale e Istituto dei Tumori, che retrodata la prima comparsa degli anticorpi antivirus a settembre del 2019, in tempi non sospetti, quando ancora non si sapeva neppure dell'esistenza di questo coronavirus. Oltre i progetti della Statale di Milano si fanno spazio anche altre ricerche. Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Statistica ed Epidemiologia Molecolare della Facoltà di Medicina dell'Università Campus Biomedico di Roma. Circa 31 lavori sono di epidemiologia ed epidemiologia molecolare. Un altro studio ben fatto è sull'obesità e il Covid. Loro hanno esaminato circa 400 persone insieme all'ospedale, al Policlinico Umberto I, e hanno visto che l'accumulo del grasso viscerale sembra sia associato ad un maggior rischio e possibilità di ricovero in terapia intensiva. E poi c'è lo studio di genetica, questo è un progetto su cui si sta facendo un fundraising, ed è un progetto della nostra genetista, la Fiorella Currieri, per cercare di capire perché certe persone si ammalano più facilmente di Covid rispetto ad altre. Quindi, poiché il virus è lo stesso, ci sono persone che geneticamente sono differenti da altre e quindi probabilmente hanno un modo diverso di affrontare un'infezione di questo genere. E poi c'è un altro progetto molto interessante che riguarda l'applicazione di un software di intelligenza artificiale, o meglio di un algoritmo di intelligenza artificiale sulle TAC senza contrasto per la diagnosi della polmonite interstiziale da TAC. Parliamo di diagnosi in 60 secondi, quindi è il tempo che si risparmia anche rispetto a un tampone rapido antigenico è enorme ed è una sicurezza al 99,9% a livello diagnostico. Quindi anche questo è un progetto molto interessante sostenuto da fondi di ricerca del campus. E ci sono medici e ricercatori che hanno attraversato la malattia senza smettere di lavorare per la scienza. Ivan Gentile, docente di malattie infettive all'Università Federico II di Napoli. Consideri che io, oltre a essere docente universitario e fare della ricerca, io sono il primario del reparto di malattie infettive, quindi non solo io, ma praticamente tutti noi medici che abbiamo lavorato in prima linea siamo stati oberati dal lavoro di routine, ma questo però non significa escludere la parte di ricerca che rimane un qualcosa che non soltanto è un dovere di docente universitario, ma è un dovere etico del medico che vuole andare oltre le cose che sa. Consideri che il progetto a cui tengo di più l'ho scritto quando io stesso avevo il Covid ed ero ricoverato nel reparto Covid, nel mio reparto, ed è quello della profilassi post-esposizione. L'idea di base è, siccome in molte malattie infettive esiste la profilassi post-esposizione, cioè vuol dire una persona che è stata a contatto con un caso, hanno la possibilità di proteggersi con delle strategie che sono un genere di farmaci. E l'idea mia era farlo per SARS-CoV-2 ed è un protocollo che è stato scritto da me e dai miei collaboratori ed è stato poi finanziato dalla Regione Campania e adesso è in valutazione ad AIFA. A tutti è ormai sempre più chiaro, anche alla luce della terribile esperienza della pandemia, che la ricerca è un asse strategico del paese, una leva di competitività su cui puntare e investire, anche per attrezzare il paese in vista della ripresa. Strumento fondamentale, il nuovo Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027. Ne abbiamo parlato con il Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. Un programma molto condiviso che individua una serie di priorità che sono i settori legati alle nuove tecnologie dell'informazione, dall'intelligenza artificiale, alle tecnologie quantistiche, al supercalcolo, nell'ambito della biomedicina, nell'ambito della filiera del cibo e dell'agricoltura tecnologica, ma anche nei settori delle scienze umane e sociali, guardando a quelle che sono le nuove frontiere della ricerca. Storicamente paghiamo un basso livello di investimenti rispetto ai partner europei, molti sono stati già programmati e ora con il Recovery Fund cosa cambia? L'obiettivo è quello ovviamente di raggiungere un livello di investimento che sia nella media europea, noi siamo al di sotto della media europea storicamente. L'investimento che noi abbiamo già programmato tra decreto rilancio e la nuova finanziaria è circa un incremento della spesa corrente nel settore dell'università e della ricerca di circa 1 miliardo e un ulteriore 1 miliardo di investimento in nuovi programmi di ricerca, quindi tra il PRIN e i progetti legati proprio al PNR nel 21-22, poi un ulteriore 1 miliardo invece di investimento in infrastrutture che sono nuovi laboratori e edilizia universitaria. Nell'ambito del recovery c'è una missione tutta dedicata all'istruzione e alla ricerca che complessivamente c'è un investimento complessivo di circa 20 miliardi, all'interno della quale 9 miliardi sono proprio dedicati alla ricerca e più un'altra quota nella parte formazione che riguarda essenzialmente la formazione universitaria. Ci sono anche nel recovery una serie di altre misure che impattano sulla ricerca, la ricerca medica che nella missione della salute, l'innovazione tecnologica che è presente poi invece nella missione che è proprio dell'innovazione, più legata a quella che è l'innovazione industriale, quindi ci sono delle risorse significative per fare quel salto di qualità di cui noi abbiamo bisogno. Passiamo ai ricercatori. In Italia sono pochi, spesso precari, e ci sono pochi giovani. Come si ferma la fuga dei cervelli? Da un lato con concorsi che siano regolari e in una dimensione, diciamo, quantitativa che risponda a quelle che sono le aspettative che ci sono. Per quanto invece riguarda le posizioni di ricercatore, noi abbiamo, come governo, già abbiamo fatto un intervento molto significativo, perché c'è stato un investimento tra il mille proroghe e il decreto rilancio su 6.000 posti di ricercatore, e questo è anche il miglior modo per far abbassare la loro età media. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.